cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Gigi D'Agostino. sempre da casa e vai. Alle due del pomeriggio suona Gigi. Taking lots of chances before. Musica che unisce. Bye.